in primo piano. Buona giornata da Katia Caramelli, daremo insieme uno sguardo ai principali quotidiani oggi 1 aprile in edicola. Cominciamo con il Corriere della Sera. Lavoro, i numeri del disagio, questo il titolo di apertura. Passera 6 milioni di disoccupati, cassi integrati e sottoccupati, il ministro contro i furbetti dell'evasione, Monti, meglio più tasse che finire come la Grecia. Centropagina, il governo spinge sulla conciliazione obbligatoria, Fornero lima il testo, riforma del lavoro martedì Mario Monti ed Elsa Fornero esamineranno i circa 70 articoli del disegno di legge per decidere eventuali correzioni. Poi in prima pagina c'è un richiamo per la storia che vi abbiamo raccontato ieri, i 6 ergastoli per l'uccisione, la tortura della ex collaboratrice di giustizia Lea Garofalo. In nome della madre, una storia esemplare, questo è il titolo dell'articolo del Corriere della Sera che ora vi leggiamo dalla prima pagina di Sebastiano Vassalli. Quella di Denise, la figlia di Lea Garofalo, uccisa e sciolta nell'acido vicino a Milano nel 2009, è una storia esemplare. Non solo è un dramma personale e familiare, ma è anche il nostro dramma. E poi l'articolo continua a pagina 20 del Corriere della Sera. Una storia terribile, scrive Vassalli, quella di Lea Garofalo, uccisa e sciolta nell'acido vicino a Milano nell'autunno del 2009, una storia che mescola vicende personali e legami di 'ndrangheta in un groviglio così intricato da non essere quasi raccontabile. Poi l'articolo continua: il dramma di Denise è innanzitutto un dramma personale e familiare, figlia di un padre mostro, nipote di altri due mostri. Denise ha avuto il coraggio e la lucidità di fare la cosa giusta, ma il suo dramma è anche una storia esemplare. È il nostro dramma perché dietro questa vicenda c'è la Calabria, una terra stremata dall'emigrazione che ha disperso nel mondo le sue forze migliori ed è ormai in qualche misura alla mercé di quelle peggiori. E poi l'articolo di Vassalli continua. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo il bel reportage di Ettore Mo che poi trovate a pagina 13. La battaglia per guarire dal male i bimbi rossi del Niger. Camilla, scrive Ettore Mo, ha 7 mesi e pesa 4,8 kg. È in cura al centro recupero nutrizionale di Aguiye in Niger e lotta contro quello che in lingua locale si chiama il bimbo rosso, una malattia tipica della carenza di vitamine. La sua storia è il simbolo dello stato di un paese, scrive Mo, tra i più poveri del mondo. E poi il reportage continua a pagina 13. E ancora dal Corriere della Sera vi segnalo a pagina 18, ma poi lo trovate anche sugli altri quotidiani, la storia del re della FAC che è morto e ha lasciato tutto alla curia della città. Il re dei cancelli senza eredi, la sua industria va alla curia, la diocesi nella FAC ci ha regalato una multinazionale. Mi piace pensare che tra non molto anche i cancelli del paradiso avranno un impianto FAC. Voleva essere una battuta tra l'affettuoso e lo scherzoso, quella con la quale l'ingegner Giorgio Favaretto salutò sul suo blog il 17 marzo scorso la scomparsa a soli 50 anni del suo datore di lavoro Michelangelo Manini, presidente e proprietario della FAC, azienda simbolo e tra i leader mondiali nel campo dell'automazione di parcheggi, cancelli, caselli autostradali e dissuasori del traffico. Un impero che da Zola Predosa, paese alle porte di Bologna, allunga i suoi tentacoli in oltre 80 paesi, dopo essere entrata nelle case degli italiani negli anni 80 con il famoso spot di un minaccioso leone accucciato davanti al cancello di una villa che veniva aperto a distanza da un Ferrari in corsa nel deserto. Una battuta, quella di Favaretto, che invece si è rivelata addirittura riduttiva rispetto a ciò che è emerso l'altro ieri all'apertura del testamento. Si è scoperto, come anticipato dal resto del Carlino, che Michelangelo Manini, per tutti il dottor Manini, ha lasciato l'intero suo patrimonio, pensate, a cominciare dalle quote di controllo della FAC, alla curia bolognese. Altro che cancelli in paradiso, il commento che ora gira nel paese, gli faranno ponti d'oro lassù. E poi l'articolo continua a pagina 18 del Corriere. della sera. Passiamo alla Repubblica. Bollette, un piano anti-stangata bis, Monti meglio tasse e aumenti rozzi che fare la fine della Grecia, ipotesi decreto, ma il ministro Clini, sbagliato tagliare gli incentivi alle rinnovabili, passera, sanzione sociale per i furbetti del fisco, record di fallimenti nel 2011. E a proposito della crisi vi segnalo l'editoriale in prima pagina su Repubblica di Eugenio Scalfari, tre chiavi per aprire la gabbia della crisi. Centropagina, la finanza dagli orafi, incassi su del 400%, blitz a Firenze e a Milano controlli su Movida e auto di lusso, blitz notturno del fisco, scrive la Repubblica a Milano, sulla Movida notturna e sulle auto di lusso, nel mirino degli ispettori ristoranti, discoteche e le vetture di grossa cilindrata. La Guardia di Finanza aveva già setacciato nel pomeriggio gli orafi sul Ponte Vecchio di Firenze. L'operazione, chiamata Ponte d'Oro, ha messo sotto torchio 20 artigiani sui 43 presenti, che hanno avuto dentro la bottega due ispettori per l'intera giornata. Ora ci fermiamo per qualche minuto, poi continuiamo la lettura dei giornali. Riprendiamo con la lettura della prima pagina di Repubblica. Guasto in ospedale, distrutti 94 embrioni, rivolta delle coppie, pagateci i danni. L'articolo poi è pagina 12 e 13, in particolare a pagina 13 il racconto. I mancati genitori scoppiano in lacrime, era l'ultima speranza di avere un figlio, leggiamo alcuni passaggi. Era la nostra ultima speranza, avevamo l'impianto programmato per aprile, anni di attese, mesi di sogni ad occhi aperti, ma allora forse è destino, forse è Dio che non vuole farci avere bambini. Perché? Perché? Perché? Adesso ci devono risarcire, devono pagare tutto. C'è chi piange in silenzio, chi invoca giustizia, chi guarda nel vuoto, chi organizza azioni legali. Hanno urlato il proprio dolore nei corridoi del San Filippo Neri, quelle coppie che volevano diventare genitori e che tra poche settimane forse lo sarebbero diventate se i loro embrioni non fossero andati distrutti per un'assurda imperizia. Chi sognava il primo figlio, chi il secondo. Forse però, perché la fecondazione assistita è un percorso faticoso, duro e spesso amaro. La scoperta della sterilità, poi le cure, gli ormoni, la speranza di farcela, tanti fallimenti, alcuni successi. E poi continua il racconto di queste coppie e la loro ovviamente disperazione. Ancora un richiamo dalla prima pagina, Piazza Fontana, il film e la doppia verità. La strage di Piazza Fontana torna a essere oggetto di un ampio saggio di Adriano Sofri, consultabile integralmente sul sito 43anni.it, che è prevedibile diventerà presto un libro. Andiamo a pagina 19 di Repubblica. I misteri di Piazza Fontana, la tesi delle due bombe riaccende le polemiche. Parte del testo è stata scritta nei giorni successivi alla visione in anteprima del film di Marco Tullio Giordana, Romanzo di una strage, ma la critica alla pellicola dedicata alla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69 resta sullo sfondo. In realtà gli obiettivi di Sofri sono altri e più impegnativi, tanto che lo inducono a riesumare due modelli letterari classici, quello dell'orazione e quella della confutazione. Il primo obiettivo, che potremmo intitolare Orazio pro Pinelli, consiste nella convincente difesa dell'integrità umana, morale e politica di Giuseppe Pinelli, morto in circostanze ancora controverse nel corso dell'interrogatorio avvenuto presso la Questura di Milano. Fa bene a ribadirlo perché la cultura pubblica del nostro paese è in genere caratterizzata da un pernicioso vizio estetizzante, quello di blandire le vittime per poi contribuire a corromperle, forti del fatto che non possono più difendersi, scrive Gotor. Il secondo obiettivo potremmo denominarlo Confutazio contra Cucchiarelli e consiste nell'opera di demolizione del libro, scritto dal giornalista appunto Cucchiarelli, da cui il film di Giordana è ispirato. Così a pagina 19 a proposito del film di Marco Tullio Giordana e delle osservazioni di Adriano Sofri. Il Sole 24 Ore, Visco la ripresa solo dal 2013, l'Ecofin all'FMI, ora tocca a voi aumentare le risorse per rilanciare l'Eurozona. E poi a centropagina, banche, 30 miliardi di svalutazioni sui bilanci 2011 dei big italiani, pesa l'effetto contabile degli avviamenti. Alessandro Profumo, presidente designato di MPS, più poteri all'EBA per evitare distorsioni. Alcune segnalazioni dal Sole 24 Ore: il manifesto per la cultura lanciato lo scorso 19 febbraio dal Domenicale continua ad essere al centro dell'attenzione anche nel numero di oggi in edicola. Il focus sul quale si sofferma il supplemento questa volta è la scuola, con una copertina dello storico Sergio Luzzatto che elogia i professori di ogni ordine e grado. Ma non c'è solo la scuola, un'intera pagina infatti è dedicata alle librerie, altro anello fragile del sistema editoriale in pericolo vista la concorrenza sempre più temibile di negozi digitali e pirateria. Non c'è ovviamente solo il manifesto, nelle consuete pagine del supplemento domenicale il meglio delle mostre d'arte per Pasqua, un testo inedito di Karl Popper sui corpi, opinioni e oggetti del pensiero e una pagina dedicata ai falsi in arte, editoria e bibliofilia. Così il Sole 24 Ore della domenica. La Stampa: tasse per non imitare Atene, questo è il titolo di apertura. Monti spiega gli aumenti fiscali un po' rozzi ma erano inevitabili. Firenze, blitz della Guardia di Finanza tra gli orafi di Ponte Vecchio. Poi centropagina, la notizia degli embrioni distrutti, guasto all'impianto, distrutti 94 embrioni, accanto inceneritore maledetto, altro morto in un mese. Torino, in tre giù dal ponteggio, uno perde la vita. Andiamo a leggere alcuni passaggi di questo articolo. Grave incidente sul lavoro ieri mattina a Torino. Tre operai che stavano lavorando nel cantiere per la costruzione dell'inceneritore al Gerbido sono caduti da un ponteggio. Uno di loro ha perso la vita. È la seconda vittima in un mese. L'articolo continua a pagina 11. Dove appunto c'è peraltro un'intervista al PM Guariniello che accusa controlli allentati, servono più ispettori. In questi ultimi tempi, dice Guariniello, osservo un preoccupante incremento degli infortuni sul lavoro. Siamo di fronte ad un allarme, dobbiamo raccogliere il segnale e passare dalle parole ai fatti. Intendo dire controlli più accurati e prevenzione affidata a specialisti del settore. Perché si muore ancora di lavoro? Gli chiede l'intervistatore. Non credo sia una questione di leggi sulla sicurezza. Ho il sospetto che si siano allentati i controlli. Avverto una diminuzione dell'attenzione da parte delle imprese. Questo l'allarme di Guariniello a proposito dei sempre più frequenti incidenti sul lavoro. Un'altra segnalazione dalla prima pagina della Stampa. Il bell'articolo di Enzo Bettiza, Jugoslavia, quell'inferno 20 anni fa, l'anniversario. L'incubo, scrive Bettiza, cominciò nell'aprile del 92. Incominciò d'un tratto dopo il referendum sull'indipendenza, riconosciuta a stento dall'Unione Europea. Allarmata dai sussulti provocati dal crollo del muro berlinese sugli assetti e i confini tradizionali del vecchio continente, molti non vollero o finsero di non capire quello che stava accadendo nel cuore più antico dei Balcani. Cercarono di vedere ad ogni costo, in quella fatidica scelta plebiscitaria della Bosnia-Erzegovina, la causa è l'inizio di un conflitto tra milizie serbe da una parte e milizie musulmane e croate dall'altra. Nulla di più opinabile. L'ossessione della simmetria, fin dai primi massacri di Vukovar che la negavano, era stata poi quasi sempre costante e determinante nella passività delle capitali occidentali. Queste infatti finirono per lavarsi le mani affidando alle risoluzioni dell'ONU e all'ambigua neutralità dei caschi blu il compito di tutelare senza spendere una cartuccia la drammatica coesistenza tra aggrediti ed aggressori. E poi l'articolo continua a pagina 12. In prima piano, anche in prima pagina sulla Stampa, come poi su tutti i quotidiani, la bella vittoria di Carolina Kostner, la favola di Carolina questa volta è d'oro. La Costner trionfa a Nizza, c'è tutta la mia vita dentro, avete visto? Non ho avuto paura. L'articolo lo troviamo a pagina 40 della Stampa. Leggiamo alcuni passaggi. Senza parole e senza più riuscire a muovere neanche un muscolo, e va bene così perché è già tutto finito. Finito, come scandisce Carolina Costner, senza fiato dopo la miglior gara di una carriera che potrebbe anche chiudersi qui con una vittoria perfetta, un successo mondiale. Nessuno sa se smetto o no, neanche io. Se non è un addio, ci somiglia molto, perché il trionfo è carico di emozioni, di elettricità e lacrime, di tutto l'entourage stravolto che abbraccia Carolina, di baci e strette, ricordi e risate isteriche. Lei è l'unica che non piange in mezzo al delirio. Ho troppi pensieri per la testa, vedremo. Quel che è certo è che si è presa l'oro e dentro c'è tutta la mia vita. Un oro rotondo, inavvicinabile, con il record personale di punti 189,94. 4 abbondanti sull'argento, la russa Leonova, più di 9 sul bronzo, la veterana delle giapponesi Suzuki. Ora ci fermiamo perché ci sono le informazioni per chi viaggia. In primo piano. La Gazzetta dello Sport, stop Milan, ira Allegri, la partita delle polemiche, un bel Catania impone il pari 1-1 ai rossoneri, il tecnico, quel tiro di Robinho era rete, ci hanno fischiato 2 fuorigioco inesistenti, ora Marotta stia zitto. E poi il richiamo per la vittoria di Carolina Costner, di cui abbiamo appena parlato. Carolina, tutto l'oro del mondo. Favolosa Costner rimonta dal terzo posto grazie ad un libero perfetto e conquista il primo titolo iridato per l'Italia. C'è la mia intera vita, dice la Costner. Veniamo all'Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Meglio le tasse del crack, Monti, rozze ma necessarie, Passera, contro l'evasione serve una sanzione sociale. Centropagina, incidente al centro di procreazione, morti 93 embrioni, distrutti 130 ovociti, si blocca a Roma l'impianto di azoto per la crioconservazione. E poi c'è un richiamo per la Giornata Mondiale della Gioventù. Roma-Brasile nel segno della fede giovane, siate sempre lieti nel Signore, il tema ricorda l'Avvenire della 27esima giornata mondiale che si celebra oggi a livello diocesano, stamani la messa presieduta dal Papa con una particolare attenzione a Rio de Janeiro, sede dell'evento del 2013. Dalla prima pagina di Avvenire voglio leggervi l'altro editoriale del direttore Marco Tarquinio. Più forte è sempre la libertà, il visto negato per Cuba. I nostri lettori, scrive Tarquinio, sanno che Avvenire aiuta con speciale puntualità e profondità a seguire il Papa nei suoi pellegrinaggi in Italia e all'estero. Il 23esimo viaggio apostolico internazionale di Benedetto XVI non ha fatto eccezione. Speriamo che le ampie cronache, le interviste e i commenti messi in pagina abbiano contribuito a far cogliere la bellezza e la complessità dell'incontro tra il successore di Pietro e le chiese e i popoli del Messico e Cuba. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro al meglio grazie all'impegno di tutti i colleghi coinvolti, abbiamo evitato di accendere polemiche. Ma ora, a viaggio concluso, è giusto che i lettori sappiano che le autorità cubane non ci hanno esattamente agevolato, anzi hanno impedito l'ingresso a Cuba di una nostra giornalista, Lucia Capuzzi, sgradita per il continuo, onesto e franco lavoro di informazione sulla difficile transizione in corso nell'isola e soprattutto per aver dato voce alla coraggiosa e civilissima dissidenza cubana. E poi continua l'altro editoriale di Marco Tarquinio. Il Fatto Quotidiano, Monti comunista in Cina ma a Roma punta al colle. Il premier a Pechino critica il capitalismo e sorvola sui diritti umani, però nel messaggio ai partiti italiani c'è una strategia che sarebbe, secondo il Fatto Quotidiano, quella di puntare al colle. Centropagina, sentinelle a 6 anni per i clan della droga, un articolo che vi andiamo a leggere. I bambini utilizzati per lo spaccio dalla camorra, pagina 7 del Fatto Quotidiano. Ettore, l'urlo perfora il silenzio della notte, è il segnale in codice con cui si avvertono gli spacciatori che stanno arrivando i carabinieri o le forze dell'ordine in borghese. Se si fosse affacciata la polizia in divisa, il grido convenuto era Mario, ma stavolta sono le gazzelle dell'arma a fare irruzione nella piazza di spaccio di Bosco Reale. È quasi l'alba, fa freddo, le sentinelle che urlano a squarciagola sono bambini dai 6 agli 8 anni, qui ai piedi di orrendi caseggiati popolari, tra saracinesche di centri scommesse e negozi chiusi per carenza di affari, l'apprendistato della camorra inizia presto, prestissimo. Bambini per l'anagrafe, manovalanza a costo zero o quasi per i clan che gestiscono l'approvvigionamento e la vendita al dettaglio della droga. E poi l'articolo del Fatto Quotidiano continua. Il Messaggero, Monti difende tasse e rincari, meglio che finire come la Grecia, passera, sanzioni agli evasori, stangata sulle bollette, il governo in campo, nuovo blitz del fisco a Firenze. Embrioni persi per un guasto a centropagina, a Roma incidente al San Filippo Neri, inchieste di procura e ministero. Vi segnalo, per quanto riguarda la prima pagina del Messaggero, boss della Maiana Santa Pollinare, ecco il nulla osta del cardinal Poletti. Il Messaggero torna con dei documenti sulla vicenda di Renatino De Pedis, il cui corpo è sepolto a Santa Pollinare, su tutte le polemiche del caso. L'articolo lo trovate a pagina 10, così come a pagina 11 troviamo un articolo sulla vicenda di cui ci siamo già occupati, la polemica intorno al film di Marco Tullio Giordana, Piazza Fontana Sofri boccia il film, e poi c'è un pezzo di Riccardo Tozzi, ma l'arte non è storia. Il Giornale, la strage degli invisibili, questo è il titolo di apertura, libri in tribunale per 12.000 imprese, chiudono 50.000 aziende agricole e passera chiede sanzioni sociali per chi evade le tasse. A centropagina una fotografia dell'ex presidente della Camera Fini con una foto di archivio con i soldati italiani in Iraq. Il titolo è "I Marò contestano Fini, traditore". Vi segnalo anche dalla prima pagina del Giornale l'articolo del vaticanista Paolo Rodari, la svolta di Milano, così Scola ridisegna la mappa del potere. L'arcivescovo di Milano Angelo Scola, ricorda Rodari, ha deciso le nuove nomine nella curia e prepara l'elezione del prossimo rettore della Cattolica. Giovedì primi annunci. L'articolo lo trovate a pagina 18. Il Secolo XIX, Monti, meglio più tasse che finire come Atene, fisco blitz tra gli orafi di Ponte Vecchio a Firenze. E poi la banda degli ascensori terrorizza le anziane nel mirino, le zone della Foce e del Levante cittadino, Genova caccia una coppia di rapinatori, già 10 i colpi. Per quanto riguarda il Secolo XIX, vi segnalo l'articolo a pagina 11, la tomba di Saddam per attirare i turisti. Saddam Hussein vale più da morto che da vivo, scrive Luigi Guelpa, e non è una questione di ricompense, piuttosto di un business che sta prendendo piede a Baghdad, dopo che un tour operator ha inserito nel suo pacchetto di viaggio tra le meraviglie dell'Iraq la visita alla tomba mausoleo del Rais. In Medio Oriente la notizia sta suscitando clamore. Così il Secolo XIX. E chiudiamo con il Manifesto, borsa in rialzo, Napolitano e Monti, le maschere della politica, scrive il Manifesto, protagoniste della manifestazione contro il governo, migliaia in corteo a Milano con Occupy Piazza Affari per protestare contro un'economia nemica dei diritti del lavoro, banche e finanza rapace. A Francoforte l'obiettivo è il cantiere per il nuovo palazzo della BCE. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, un ringraziamento in regia a Pietro Lacorte, da Katia Caramelli, l'augurio di una buona domenica.